Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Noi abbiamo sempre sostenuto dal 2013 nel programma elettorale che sull'euro si debba fare un referendum, perché come ci hanno portato nell'euro senza decidere, oggi dobbiamo decidere come cittadini se restarci o andare via. E direte anche voi la vostra, ma prima vi voglio dire, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che questa sera negli ultimi minuti un turbinio di notizie, infatti non ci sarà, non farò il consueto punto sulla politica italiana della settimana, perché due notizie grosse sono arrivate: l'attesa sentenza per quanto riguarda il processo per l'omicidio della piccola Yara Gambirasio. Bossetti, l'unico imputato, Massimo Bossetti, è stato condannato pochi minuti fa all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Bergamo. E poi quest'altra notizia che arriva invece dal Bangladesh: un comando ha assaltato un ristorante, ci sono molti ostaggi stranieri. Fino a pochi minuti fa la Farnesina non escludeva che ci fossero ostaggi anche tra gli italiani. Adesso la notizia, secondo i media locali del Bangladesh, è che sarebbero morti due italiani. Quindi insomma iniziamo in modo così piuttosto concitato questo effetto notte di questa sera, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ritornando, prima di farvi il riassunto della giornata, al tema che avete sentito da Di Maio, Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle. Allora, Di Maio ha ribadito che il Movimento 5 Stelle intende richiedere un referendum sulla permanenza o meno nell'euro. Quindi vedete questa crisi di appartenenza all'Unione Europea, alle sue istituzioni, che diciamo comincia un po' a, dico, a sgretolarsi, insomma, a fare qualche crepa. E poi c'è Matteo Salvini, che oggi, leader della Lega, ha detto che non serve un referendum perché sarebbe un massacro per l'economia. Dice: se la Lega va al governo ne usciamo direttamente. Voi intanto potete cominciare a mandare i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666, a proposito di quello che pensate sull'euro: restiamo, non restiamo, facciamo il referendum, se arriva la Lega usciamo, eccetera. Riassunto però adesso della giornata con appunto queste principali due notizie che vi anticipavo poco fa. Dhaka, in Bangladesh, comando assalta un ristorante, molti ostaggi stranieri, secondo i media locali ci sarebbero anche due morti italiani. L'omicidio di Yara Gambirasio, è arrivata la sentenza per Massimo Bossetti, ergastolo. Austria, le elezioni presidenziali sono da rifare, la Corte Costituzionale ha invalidato l'esito del ballottaggio. Brexit, il centro studi di Confindustria prevede un effetto sul PIL, intanto i ministri britannici Gove e May sono d'accordo, Londra nell'Unione Europea fino al 2017. La politica italiana e il Partito Democratico preoccupato dal rischio di essere sorpassato dal Movimento 5 Stelle, lunedì ci sarà la direzione. E nel centrodestra ultimatum di Salvini a Berlusconi per l'unità dello schieramento. L'esplosione della palazzina a Milano, fermato per strage Giuseppe Pellicanò, il padre delle due bimbe ustionate, secondo i PM aveva rabbia per la separazione. Nell'esplosione sono morti l'ex compagna e una coppia di giovani fidanzati. Stati Uniti, primo incidente mortale per un'auto a guida autonoma, il sistema non ha visto il lato bianco del tir e poi lo schianto. Europei di calcio, Italia-Bordeaux per affrontare la Germania, domani forse gioca De Rossi. E quindi vi dicevo questa notizia che appunto arriva dal Bangladesh, ci sarebbero due morti italiani in questa sparatoria in un ristorante, c'è stato l'attacco di un commando, secondo i media locali ci sarebbero molti ostaggi stranieri, la Farnesina fino a poco fa, come vi dicevo, non escludeva che ci fossero tra questi ostaggi anche degli italiani, e adesso alcuni media locali del Bangladesh danno come notizia che tra i morti ci sarebbero due italiani. E poi, quindi vi darò man mano aggiornamenti naturalmente se arriveranno, e poi il processo invece per l'omicidio della ginnasta 13enne di Brembatessopra, Yara Gambirasio, era la sentenza molto attesa di oggi, doveva arrivare verso le 20, è arrivata poco fa. Yara Gambirasio, vi ricordate, uccisa il 26 novembre del 2010. L'unico imputato, il carpentiere Massimo Bossetti, è stato quindi condannato all'ergastolo dai giudici della Corte d'Assise di Bergamo. Poi ne parleremo direttamente con chi ha seguito tutte le tappe di questo processo e ricostruiremo anche la vicenda. Siamo alla Brexit e ancora botta e risposta tra Bruxelles e Londra sui tempi dell'uscita. Il candidato senza carisma Michael Gove si propone come l'uomo del cambiamento. Gove, attuale ministro della giustizia, appare in conferenza stampa a una settimana dal terremoto politico del referendum sulla Brexit per puntare alla guida dei Tories e del prossimo governo. Liquida Boris Johnson, con poche parole, non era l'uomo adatto a questo lavoro e lancia l'affondo. Il governo che verrà attiverà non prima del 2017 l'articolo 50 per il divorzio dall'Europa. Molto radicale e netto il suo punto di vista sull'immigrazione, Gove propone un sistema di punti alla australiana che porti alla riduzione nel numero di arrivi oltre manica. Intanto il cancelliere dello scacchiere Osborne mette nel cassetto l'obiettivo di un surplus di bilancio entro il 2020. Dall'Europa prosegue il coro, finora inascoltato, di chi esige un'accelerazione della separazione. Sulla Brexit invitiamo le autorità di Londra a chiarire le loro intenzioni. Non abbiamo tempo da perdere, dice il presidente della Commissione Juncker da Bratislava, dove si è aperto il semestre europeo guidato dall'euroscettica Slovacchia. Il Regno Unito deve presentare quanto prima un programma sull'inizio dei colloqui di uscita, fa eco il ministro degli esteri tedesco Steinmeier, mentre il presidente francese Hollande considera la decisione referendaria come non rinviabile né annullabile. Giornata animata anche da EasyJet, la compagnia low cost scatena un caso quando si diffonde l'indiscrezione che ha chiesto licenza di trasporto in un altro paese. EasyJet preciserà poi di non voler lasciare la Gran Bretagna come base. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in questo clima da post-Brexit, quindi da Europa in crisi, l'Austria torna al voto. Perché? Perché sono state riscontrate dalla Corte Costituzionale delle irregolarità nel ballottaggio per le presidenziali dello scorso 22 maggio. Dunque tutto da rifare. In autunno gli austriaci tornano a votare per eleggere il loro presidente. Più tardi poi ne parleremo in modo approfondito. Dall'Austria siamo alla politica italiana. Il Partito Democratico è preoccupato dal rischio di essere sorpassato dal Movimento 5 Stelle, come sarebbe secondo alcuni sondaggi. Lunedì ci sarà la direzione del partito. Intanto nel centrodestra ultimatum di Salvini a Berlusconi, ha scritto anche una lettera per l'unità dello schieramento del centrodestra. Nel frattempo arrivano i dati positivi sul lavoro che sono stati diffusi stamattina. Un dato, quello della disoccupazione, che a maggio torna a scendere dopo l'incremento di aprile, si attesta allora, secondo l'Istat, all'11,5% rispetto all'11,6% del mese precedente. Sempre a maggio il tasso di occupazione risulta invece pari al 57,1%, in aumento di 0,1 punti. Il trimestre marzo-maggio 2016 indica inoltre 101.000 unità occupate in più rispetto ai tre mesi precedenti, con segnali di crescita diffusi su tutte le principali componenti. Resta invariato invece il tasso della disoccupazione giovanile, ferma al 36,9%. Soddisfazione da parte del governo. Con questi dati siamo a 497.000 posti di lavoro in più da febbraio 2014, scrive il presidente del Consiglio Renzi. Il Jobs Act ha creato lavoro stabile. I dati sono in miglioramento, spiega il ministro del lavoro Poletti, perché è il terzo mese consecutivo e quando una tendenza si stabilizza vuol dire che diventa una tendenza di fondo. Di dati positivi parla la CISL. È necessario continuare ad agevolare i posti stabili. Dalla CGIL invece oltre 3 milioni di firme in Cassazione per 3 referendum su parte del Jobs Act. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso torniamo a parlare di femminicidi, poi anche perché così si è rivelato un fatto terribile di cronaca. L'obiettivo pare fosse quello appunto di un femminicidio, ci è riuscito e sono morte anche altre persone. Però prima di tutto questa iniziativa che sta partendo, un camper della polizia in strada per le denunce. Ascoltarle, sostenerle, incoraggiarle a ribellarsi, a denunciare, e questo è il senso della campagna lanciata dal Ministero dell'Interno insieme alla Polizia di Stato dal titolo «Questo non è amore». 15 camper che viaggeranno nelle piazze di altrettante città italiane per tutta l'estate. All'interno una squadra di operatori specializzati, psicologi, medici, legali, uomini delle forze dell'ordine. A loro le donne, quelle che decideranno di salire sul camper, potranno raccontare le loro storie e chiedere aiuto. Il capo della polizia, Franco Gabrielli. Un modo per esserci e per essere vicino alle problematiche di un tipo di reato che, prima ancora di essere un reato, è una questione di carattere culturale e sociale. In realtà, secondo dati del Viminale, i reati contro le donne sono in calo. Nei primi sei mesi del 2016, meno 22,9% degli omicidi, meno 23,3% delle violenze sessuali, ma evidentemente non basta. Il ministro dell'Interno Alfano. Siamo soddisfatti della diminuzione, ma, e lo dico a stampatello, non ci accontentiamo. Quindi siamo qui per dire che tutto quello che abbiamo fatto fin qui è positivo, ma non ci basta. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E poi, come vi dicevo, la cronaca: è stato un femminicidio l'esplosione della palazzina di Milano di via Brioschi del 12 giugno scorso. Perché? Perché Giuseppe Pellicanò, il pubblicitario di 51 anni, indagato per strage in relazione a quella esplosione nella quale hanno perso la vita l'ex compagna Micaela Masella e una coppia di giovani fidanzati, sono rimaste ustionate le due bambine, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di strage. La Polizia di Stato, che conduce le indagini, ha inviato la squadra mobile all'ospedale di Niguarda di Milano, dove si trova ricoverato, lo sta conducendo al carcere di San Vittore. Pellicanò come scrive il PM Elio Ramondini nel provvedimento di fermo nei suoi confronti, dice aveva rabbia per la separazione, quindi avrebbe manomesso il tubo del gas dell'appartamento dove stava l'ex compagna, causando questa esplosione, quindi la morte di lei e anche di una coppia di fidanzati. Stati Uniti, in Florida c'è stato il primo incidente mortale di un'auto a guida autonoma, se ne parla da qualche tempo. La vittima era il conducente di una Tesla che aveva inserito il sistema di guida automatica su un'autostrada. La vettura però si è schiantata contro un tir proveniente nella direzione opposta che stava svoltando a sinistra. L'azienda ha spiegato che il sistema di guida non ha visto il lato bianco del camion contro un cielo particolarmente luminoso. Pensate quali rischi, insomma, prima di mettere certi veicoli sulle strade. Insomma, per chiudere, gli europei di calcio in Italia e Bordeaux per affrontare la Germania, forse gioca De Rossi, poi ci colleghiamo direttamente con il nostro inviato in Francia per capire gioca, non gioca, come andrà e che cosa anche pensa la Merkel, se ha avuto modo di sentirla. Intanto invece vado sui vostri messaggi. La domanda che facevo all'inizio, avete sentito Di Maio, Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle nell'incipit, che diceva noi del Movimento 5 Stelle come da programma chiediamo appunto di fare un referendum sull'euro per star dentro o uscirne a seconda di quello che decideranno i cittadini. Poi incalza anche il leader della Lega Matteo Salvini che dice no, in realtà il referendum non è necessario, anzi creerebbe ulteriori problemi, se la Lega va al governo ne usciamo direttamente dall'euro. E voi qual è la vostra posizione? Cosa ne pensate? 349-238-6666 come sempre il numero per i WhatsApp, per gli SMS, oppure potete scrivere comodamente sulla pagina Facebook di Effetto Note e lì anche aderire senza indugio quando volete. Comincio con i vostri messaggi, per esempio dice questo messaggio di X: fuori dall'euro subito, basta questa schiavitù economica imposta dai banchieri sionisti, riprendersi la propria sovranità è ora di vitale importanza. Poi il referendum sull'euro, una follia, ma hanno idea del fatto che viviamo in un contesto internazionale, ma sanno quello che dicono, scrive un ascoltatore o ascoltatrice, non si è firmato, mettete almeno, dico sempre, un nome d'arte. Poi fuori dall'euro subito, un altro ascoltatore. Poi l'Italia non è il Regno Unito, ormai dobbiamo solo stare zitti. Proseguite con i vostri messaggi. E intanto anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte Domenico scrive: sicuramente molti parametri imposti dall'euro andrebbero rivisti, purtroppo dall'euro non si può uscire. Tra poco ci colleghiamo con un giornalista dell'Eco di Bergamo che finora nei vari appuntamenti che abbiamo avuto con le tappe del processo sull'omicidio di Yara Gambirasio ha seguito c'è un gol, mi dicono, scusate, ha seguito le varie tappe di questo processo, una vicenda lunghissima che dura da 6 anni, dal 2010 quando fu trovato il cadavere della povera Yara. In realtà lei fu seviziata e uccisa nel novembre 2010, poi il suo cadavere è stato trovato 3 mesi dopo, non dalle forze dell'ordine, non dai volontari che si erano mobilitati in massa, ma da un appassionato di aeromodellismo che non trovava più il suo aereo che aveva lanciato in aria e così l'aveva trovata in questo campo di sterpaglie. Ci collegheremo tra poco, adesso invece c'è la viabilità, vi ricordo appunto per i vostri messaggi sull'euro 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Note. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tra poco ve le ricordo le notizie, se non avete acceso puntualmente alle 21 con le due principali che riguardano il processo per l'omicidio di Yara Gambirasio e queste notizie che arrivano dal Bangladesh. Intanto anche i vostri messaggi continuano ad arrivare sulla pagina Facebook di Effetto Notte o anche al 349-238-6666 che è il numero per WhatsApp ed SMS. Quello che vi chiedo questa sera, visto che continua il dibattito fortissimo sulla Brexit, adesso l'Austria anche lei è in crisi perché bisogna di nuovo andare a votare per le presidenziali, è stato invalidato il risultato dello scorso 22 maggio, e poi in Italia Movimento 5 Stelle e Salvini chiedono di uscire dall'euro, nel senso Movimento 5 Stelle chiede di fare un referendum, Salvini dice se andiamo al governo ne usciamo definitivamente. Maurizio scrive: uscire dall'euro sarebbe una tragedia, viaggi più complicati e maggiori spese. E poi un altro messaggio di Alex: fuori dall'euro è una follia, l'Italia non è in grado di gestire una politica monetaria sana. Proseguite, tra pochissimo appunto andremo sulla vicenda di Yara Gambirasio, di questo processo, di questa sentenza che era tanto attesa. Intanto vi ricordo quali sono le notizie principali della giornata. Dhaka, Bangladesh, la capitale di Bangladesh, un commando ha assaltato un ristorante, molti ostaggi stranieri ci sarebbero e poi secondo i media locali sono morti due italiani in questo attacco. Ancora deve arrivare la conferma della Farnesina. E poi l'omicidio di Yara Gambirasio, è arrivata la sentenza poco fa per Massimo Bossetti e quella di ergastolo. Austria, le elezioni presidenziali sono da rifare, la Corte Costituzionale ha invalidato l'esito del ballottaggio. Brexit, il centro studi di Confindustria prevede un effetto sul PIL, intanto i ministri britannici Gove e May sono d'accordo, dicono Londra nell'Unione Europea fino al 2017. La politica italiana, il Partito Democratico preoccupato dal rischio di essere sorpassato dal Movimento 5 Stelle, lunedì ci sarà la direzione del partito e nel centrodestra c'è l'ultimatum di Salvini a Berlusconi per l'unità dello schieramento. L'esplosione della palazzina a Milano, fermato per strage Giuseppe Pellicanò, il padre delle due bimbe ustionate, secondo i PM aveva rabbia per la separazione. Nell'esplosione sono morti l'ex compagna e una coppia di giovani fidanzati. Stati Uniti, primo incidente mortale per un'auto a guida autonoma, il sistema non ha visto il lato bianco del tir e poi lo schianto. Europei di calcio, Italia è a Bordeaux per affrontare domani la Germania, forse gioca De Rossi. E quindi siamo arrivati alla sentenza dopo una lunga vicenda, naturalmente di primo grado, questa sentenza di condanna all'ergastolo per Massimo Bossetti, unico imputato per l'omicidio della piccola Yara Gambirasio. Ormai lo ricordate tutti, la tredicenne ginnasta di Brembate Sopra in provincia di Bergamo, che fu seviziata e uccisa il 26 novembre 2010, poi però il suo corpo in realtà fu trovato 3 mesi dopo in un campo incolto di Chignola d'Isola, a pochi chilometri da dove abitava. A trovarla, vi dicevo, non le forze dell'ordine né i tanti volontari che si erano pur mobilitati in massa per cercarla, ma un aeromodellista quarantenne che non trovava il suo aeroplanino, si imbatté purtroppo nel cadavere di questa bambina in stato di avanzata decomposizione. Ed è arrivata appunto questa condanna dalla Corte d'Assise di Bergamo. Per noi c'è Vittorio Attanà, che è giornalista del quotidiano L'Eco di Bergamo. Buonasera Vittorio. Buonasera Roberta e a tutti gli ascoltatori. Grazie ancora della tua presenza qui a Effetto Notte, abbiamo seguito man mano le varie tappe con te. Senti, intanto partiamo subito, il rischio diciamo forte per Bossetti era questo, dell'ergastolo, no? Era stata la richiesta della PM Ruggeri. Sì, sì, richiesta che è stata accolta dalla Corte dopo 10 ore di Camera di Consiglio, quindi sicuramente hanno discusso fra loro gli 8 giurati che sono stati chiamati a questa difficile decisione. Permettimi di interromperti subito, scusami Vittorio, solo per specificare per chi non lo sapesse che la Corte d'Assise, dalla quale è stata giudicata Bossetti, la Corte d'Assise in generale è un organo giurisdizionale penale istituito per i reati più gravi, quindi naturalmente un reato come questo, ed è composto, correggimi se sbaglio, da 2 magistrati professionisti e poi da 6 giurati cittadini comuni, insomma, no? Quindi sono, esatto, c'è un presidente che è un magistrato togato, un giudice a latere, quindi un altro magistrato togato, e poi ci sono 6 giudici popolari scelti per estrazione da elenchi di cui tutti i cittadini possono far parte, per cui rappresentano il popolo italiano, in nome del quale viene poi pronunciata la sentenza. Proprio appunto per questi reati così gravi. E quindi dicevi, scusami se ti ho interrotto, era per spiegare questa cosa, Vittorio. Sì, la Corte ha accolto la richiesta del pubblico ministero di ergastolo, quindi non solo ha riconosciuto Massimo Bossetti colpevole del reato di omicidio di Yara Gambirasio, ma ha anche riconosciuto quella che era l'aggravante più forte contestata dalla pubblica accusa, ovvero quella di aver adoperato sevizie e crudeltà nei confronti di questa povera bambina, perché questi tagli che aveva la povera Yara sulla schiena, sui polsi, sul gluteo, erano tagli fondamentalmente non idonei ad uccidere, quindi compiuti da qualcuno che voleva andare al di là del semplice, tra virgolette ovviamente, gesto omicidiario, ma anche proprio per infliggere ulteriori e inutili sofferenze. Questa è in sostanza la ratio dell'aggravante di sevizia e crudeltà che la Corte ha riconosciuto, perché altrimenti l'ergastolo non sarebbe stato comminato a Bossetti, perché era questa l'aggravante che consentiva di infliggergli il massimo della pena. Senti, leggevo dalle agenzie che sia lui che la moglie Marita sono rimasti impassibili alla lettura di questa sentenza. Assolutamente impassibili, ti confermo. In particolare io mi sono soffermato su Bossetti, l'ho guardato mentre la presidente della Corte Antonella Bertoia pronunciava la parola ergastolo, lui non ha veramente mosso un muscolo, quindi infatti questo mi ha molto colpito, ovviamente, perché si parla della sua vita, si parla di una condanna pesantissima, infamante, ma probabilmente in cuor suo avrà sofferto moltissimo, però non lo ha dato assolutamente a vedere. Tra l'altro ricordiamo Vittorio Tanà, intanto questo è primo grado e bisognerà vedere poi come prosegue, però ricordiamo un attimo che questo è stato uno dei casi giudiziari che più hanno impressionato in assoluto l'opinione pubblica e una delle vicende tra l'altro più clamorose per quella che è stata la macchina delle indagini, non soltanto una delle più clamorose a livello nazionale, ma forse unica nel suo genere anche a livello mondiale, no? Io penso di poter dire che a livello mondiale un'indagine simile non sia mai stata fatta, non risulta quantomeno a me, ma penso che non risulti davvero, perché qui si è cercato una persona, un presunto responsabile di omicidio, a partire dal suo DNA con uno screening che ha superato le 20.000 confronti. Quindi cioè DNA a tappeto veramente... proprio su migliaia di persone, no? Era stato DNA fatto tappeto, questa ricerca di DNA. Perché fondamentalmente altri indizi non ce n'erano, c'era questo indizio che è fortissimo, ma paradossalmente non c'era un sospettato a cui portare. Questo anche un po' garantisce il fatto che l'indagine sia stata fatta senza condizionamenti, quindi che sia stata un'indagine effettivamente buona a mio giudizio, perché qui non si è partiti da un sospettato e poi si è cercato di avere un riscontro scientifico della sua colpevolezza, viceversa si è avuto prima il riscontro scientifico, non si sapeva nulla del sospettato, né chi fosse, né dove abitasse, né per quali ragioni avesse ucciso, e ci si è arrivati al contrario, quindi questo diciamo che almeno in linea teorica è un po' una garanzia di mancato condizionamento, ecco, da parte dell'inquirente. Tra l'altro ricordiamo che proprio lungo questa indagine Vittorio Tanà praticamente è stata riscritta in parte almeno la genealogia di due famiglie, no? Di quella dei Guerinoni nelle valli bergamasche, dove appunto che sono state setacciate per anni dai investigatori, i Guerinoni che hanno scoperto legami parentali con Bossetti, con quello che considerano. Sì, questa forse, Roberta, è l'aspetto più incredibile, più romanzesco di tutta la vicenda, perché questa famiglia assolutamente incolpevole dei Guerinoni si è trovata in mezzo a questa indagine pazzesca, si è trovato che questo ignoto uno, quindi il presunto autore dell'omicidio, era imparentato con una persona ormai deceduta da tempo, dal 1999, Giuseppe Guerinoni, ci si è arrivati tramite DNA. E impressionante è stata la ricostruzione dell'albero genealogico. Gli inquirenti sono arrivati fino a Battista Guerinoni, il capostipite dei Guerinoni di Gorno della Valseriana, classe 1719. Accidenti. Quindi, perché veramente... ricordiamo, Vittorio, che in un primo tempo, dopo appunto tutti questi DNA che erano stati ricercati a tappeto, che cosa era successo? Che c'era qualcuno che ha un DNA simile ma non uguale, quindi sono risaliti un po' ai parenti, no? Fino ad arrivare appunto a questo Guerinoni che era morto. Sì, Roberto, ti confermo, tutto nacque con un blitz alla discoteca Sabbie Mobili, che si trova di fronte al campo di Chignolo d'Isola, che è il campo dove è stato trovato il corpo della povera Yara. Io c'ero quella sera, quindi posso assicurare, la polizia entrò con i cani in questa discoteca e acquisì il registro degli iscritti, perché si trattava di un club privato per cui bisognava sottoscrivere una tessera per poter accedere al locale. Erano circa 30.000 nomi, perché è una discoteca aperta da diversi anni e quindi aveva collezionato una serie di iscritti. La polizia scelse un elenco di giovani a campione, li scelse più che altro per la vicinanza a Brembate Sopra, ha scelto quelli che abitavano a Brembate Sopra fondamentalmente, da sottoporre a screening sia per quanto riguarda le loro celle telefoniche, quindi gli agganci, la loro posizione il 26 novembre, giorno della scomparsa di Yara, sia poi successivamente come screening del DNA. E salto fuori che un tal Damiano Guerinoni, un giovane di Brembate Sopra, aveva il cromosoma Y e solo quello identico a quello di ignoto 1. Quindi la polizia scientifica che fece questa scoperta dedusse che e quello era il ramo giusto, ma bisognava risalire, insomma. E poi mi pare fu l'intuizione di una poliziotta che pensò di prendere un bollino della patente di quest'uomo che era morto, perché dietro c'era la saliva, aveva intuito, e di lì poi insomma si è risaliti man mano e si è scoperto che appunto Bossetti era figlio in realtà di questo Guerinoni, che aveva avuto una relazione in passato con quella quella che è la madre di Bossetti, questo tutto secondo l'accusa. Scusami Vittorio, ti interrompo perché c'è in collegamento Andrea Pezzotta, l'avvocato Pezzotta, legale della mamma di Iera. Buonasera avvocato. Sì, buonasera a lei. E grazie della disponibilità. Che cosa pensa di questa sentenza? Avvocato, siete arrivati fin qui. La leggeremo, ma il risultato ovviamente non ci ha sorpreso, nel senso che siamo convinti dal primo giorno della colpevolezza di Bossetti, al di là di tutte le suggestioni che sono state create mediaticamente nel corso di quest'anno di dibattimento, gli elementi probatori e l'andamento del processo in corte per noi avevano un unico significato, quindi non è certo una sorpresa la condanna. La battaglia è stata soprattutto avvocato sulla questione del DNA, no? Il DNA che era la prova regina, DNA nucleare, però la difesa ha sempre detto manca quello mitocondriale, non è corrispondente, quindi non è valido. Però invece l'accusa ha sempre detto è quello nucleare che conta di DNA e corrisponde. Io le dico solo una cosa, sul DNA nucleare, in questa indagine sono state fatte 94 analisi di reperti che hanno sempre dato come indicazioni marcatori che portavano. C'è stato un approfondimento che non ha precedenti, credo, nella storia giudiziaria italiana. E quindi davvero noi consideravamo il risultato finale come un risultato quasi scontato. Avvocato, i genitori e tutta la famiglia di Iera sono sempre stati estremamente riservati, giustamente bisogna rispettarli per questo. Le ha accolto una qualche reazione? No. Guardi, ho colto le reazioni ma le tengo per me, nel senso che una delle cose belle di questo processo è stato poter conoscere queste due persone, che sono due persone straordinarie, anche per la riservatezza e la serenità, ma la serietà che riescono a mettere in questa vicenda. Avvocato, la sento male, Mi perdoni, ecco, sì. Dico, abbiamo scambiato ovviamente le nostre impressioni, ma sono impressioni molto personali. Mi sembrerebbe giusto divulgare. Quindi ritenete appunto che sia fatta giustizia almeno per il momento, perché poi questo è il primo grado, ricordavamo, certo, di giudizio. Guarda, la storia di questi processi in Italia purtroppo è molto tormentato, lo vediamo tutti i giorni, però credo che veramente qui ci sia stato un livello di approfondimento che credo renda anche questa sentenza solida anche per i passaggi successivi. Comunque vedremo. Grazie, ringrazio moltissimo avvocato Grazie Pezzotta. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Ricordiamo il legale della mamma di Iera. Vittorio Attanà. Sì. Ci stavi ricostruendo molto bene, insomma, tutto questo percorso di questa macchina investigativa eccezionale, come ha ricordato anche l'avvocato. Insomma, la prova regina è il DNA. Poi c'era anche altri elementi come le celle telefoniche, no? L'ultima telefonata di Bossetti, sì, alle 17:45. Allora Roberta, bisognerà vedere come la Corte nelle motivazioni della sentenza considererà gli altri indizi, il furgone, potrebbe appunto considerarli, sì, come prove oppure no. A mio giudizio, quello che posso dirti, avendo seguito il dibattimento, è che questa serie di indizi che tu hai citato, quindi le immagini dell'autocarro presunto di Bossetti attorno al centro sportivo di Brembate, ma anche l'aggancio delle celle telefoniche, le tracce di sfere di metallo, di fibre tessili riconducibili, in qualche modo all'imputato, sono elementi più che probatori, sono indizi che di fatto non contrastano con la prova del DNA, e questo è un dato che la rafforza, ecco. Vittorio, hai sentito, appunto, diceva l'avvocato, noi ce l'aspettavamo perché noi abbiamo sempre creduto nella colpevolezza di Bossetti. Sai che tra l'altro è stato davvero, proprio per le caratteristiche di questa vicenda, un processo molto mediatico, molto spaccato tra colpevolisti e innocentisti, no? Sì, assolutamente. Lì fuori dal tribunale so che c'era gente addirittura dall'alba che aspettava, comuni cittadini, tanto interesse. Sì, fin dalle 5 del mattino per garantirsi un posto, diciamo persone che hanno seguito quasi tutto il processo si sono piazzate in coda, quindi esattamente prima dell'alba, addirittura qualcuno ha preso un albergo per poter essere più vicino possibile al tribunale e non correre il rischio di perdersi l'udienza. Questo ovviamente è un effetto della grande mediaticità che ha avuto questo caso, sicuramente è stato seguito fino ai minimi dettagli da tutti i media nazionali. Per chiudere, Vittorio Attanà, intanto leggo questa agenzia che riporta una dichiarazione dei legali di Bossetti, che sono Claudio Salvagni, che è stato qualche volta anche qui effetto notte, e Paolo Camporini, che dicono che Bossetti avrebbe detto: non è possibile, allucinante, non sono stato io. Tra l'altro, prima della sentenza aveva rivolto anche un appello, no? Alla giuria, aveva detto: sarò uno stupido, sarò un cretino, sarò un ignorantone, però non sono un assassino, non ho ucciso io Iara. Sì, lui ha parlato abbastanza lungamente, ha sostenuto quello che sosteneva sin dall'inizio, sin dal suo arresto, oltre che dall'inizio del processo, cioè appunto quello che dicevi tu, che lui insomma altro non è che un padre di famiglia, che è un gran lavoratore, che tutte le sere torna a casa a cena dalla moglie e dai figli, non può assolutamente aver commesso un fatto così del grave, genere, così brutto. Di fatto però, tuttavia, non ha affrontato, come non ha mai affrontato fino alla sentenza, pienamente i punti che gli sono stati contestati, perché sul DNA ha detto semplicemente che non può essere il suo, deve esserci stato un errore, non ha fornito spiegazioni alternative. E anche sulle intercettazioni telefoniche in cui si confrontava con la moglie su quel 26 novembre. Sì, lui ha ribadito sostanzialmente quello che dice sin dall'inizio, ovvero che tutte le sere torna a casa a cena a mangiare dalla famiglia, però ovviamente quello che interessava alla corte era quella sera, cosa aveva fatto, certo, quella sera. Va rilevato, Vittorio, poi ti lascio, che la moglie Marita lo ha sempre sostenuto dall'inizio, mi sembra, a parte quell'interrogatorio fatto al telefono e poi anche quando era stata intercettata presente lì nella sala per comunicare del carcere, ha sempre creduto, pare almeno nella sua innocenza, no? Sì, la moglie ha sempre creduto nella sua innocenza, in aula lo ha dichiarato apertamente, sostenuto a spada tratta. Nelle intercettazioni va detto però che più volte, specialmente nelle prime fasi dopo l'arresto, lei stessa a incalzare il marito, lo sommerge di veramente di domande, quasi fosse un pubblico ministero, lei è la prima interessata a conoscere la verità direttamente dal marito, più volte gli dice voglio sapere la verità, non voglio che venga fuori dopo, e lui la rassicura in questi dialoghi e effettivamente poi lei probabilmente si convince e in aula viene a sostenere l'innocenza del marito. Vittorio Attanà, io ti ringrazio moltissimo, grazie per il tuo lavoro, poi avremo occasione di risentirci. Ricordo Vittorio Attanà dell'Eco di Bergamo. Grazie a voi. Grazie Vittorio, buona continuazione. Grazie. Ciao Vittorio. Ora ci lasciamo per una pausa di ricreazione, adesso diciamo i messaggi su Bossetti lascerei stare perché questa è la sentenza, poi ognuno avrà le sue convinzioni naturalmente. Invece ritorno sulla questione dell'euro, visto che appunto in questo momento di crisi generale europea, anche di identità, forse una crisi di identità, oltre alla Brexit, oltre all'Austria, adesso dicevo Movimento 5 Stelle con Di Maio che oggi ha ribadito che chiederanno un referendum sulla permanenza o meno nell'euro, e Salvini ha detto addirittura se andiamo al governo usciremo direttamente. L'euro, dice questo ascoltatore, è un'area valutaria ed architettata in maniera incompatibile con il nostro tessuto economico, quindi fuori subito, dice. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri messaggi, a tra poco. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi, da dove potete ricevere tutte le notizie da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando. Ogni tanto mi scrivete appunto dai posti da Lussemburgo, dagli Stati Uniti, dall'Australia, arriva da ogni parte del mondo la vostra voce, i vostri messaggi. E adesso continuano ad arrivare sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666 a proposito della richiesta di referendum sull'euro che ancora arriva ribadito Luigi Di Maio oggi del Movimento 5 Stelle, e poi Salvini della Lega che dice no, se andiamo al governo noi della Lega ne usciamo direttamente. Per esempio scrive Stefano da Rimini: se noi fossimo rimasti con la lira adesso la nostra maggiore industria sarebbe la pastorizia, dice. Poi euro, no, quest'altro messaggio: con Movimento 5 Stelle e Salvini sull'euro abbiamo dei potenziali cretini che ci vogliono governare, dice questo ascoltatore. Mentre Paola scrive: l'euro ci ha reso tutti più poveri, si sono arricchiti solo le banche e i potenti, bisogna uscirne al più presto. Adesso però, prima di passare ai prossimi argomenti, vi ricordo quali sono le notizie più importanti. Bangladesh, l'ISIS rivendica l'attacco a un locale di Dhaka nella capitale. Ci sarebbero in ostaggio, un comando terrebbe in ostaggio almeno 20 civili, lo riferisce l'agenzia di stampa del sedicente califfato. Alcuni media locali danno anche la notizia di 2 morti italiani, in realtà poi qualcuno parlava di 2 agenti uccisi, sono ancora notizie per il momento un po' vaghe. Poi l'omicidio di Yara Gambirasio, è arrivata la sentenza per Massimo Bossetti, è di ergastolo. La prova del DNA è stata decisiva, così dice il procuratore di Bergamo. Austria, le elezioni presidenziali sono tutte da rifare, la Corte Costituzionale ha infatti invalidato l'esito del ballottaggio del 22 maggio scorso. Brexit, il centro studi di Confindustria prevede un effetto sul PIL. La politica italiana, il Partito Democratico preoccupato dal rischio di essere sorpassato dal Movimento 5 Stelle, secondo dei sondaggi. Lunedì ci sarà la direzione del partito e nel centrodestra c'è l'ultimatum di Salvini a Berlusconi per l'unità del centrodestra, per l'appunto. L'esplosione della palazzina a Milano, fermato per strage Giuseppe Pellicanò, il padre delle 2 bimbe ustionate, secondo i PM aveva rabbia per la separazione. Nell'esplosione sono morti l'ex compagna e una coppia di giovani fidanzati. Europei di calcio, Italia a Bordeaux per affrontare la Germania, forse gioca De Rossi, e adesso tra Galles e Belgio è 1-1, pareggio per il momento. E adesso parliamo di Austria, dove c'è stata questa clamorosa decisione, come avete sentito dai titoli, della Corte Costituzionale, che ha invalidato i risultati del ballottaggio delle elezioni dello scorso 22 maggio a causa di irregolarità. Dunque, il candidato dell'estrema destra, Höfer, potrà di nuovo sfidare l'indipendente sostenuto dai Verdi, Van der Bellen, che lo aveva superato proprio per un pugno di voti. Uno sviluppo, questo, chiaramente incredibile, giusto appena una settimana prima dal giuramento, da quello che doveva essere il giuramento l'8 luglio di Van der Bellen. Quindi tutto da rifare. In autunno gli austriaci torneranno a votare per eleggere il nuovo presidente. Un'altra crisi in seno all'Europa, chiedo a Vittorio D'Arold del Sole 24 Ore. Ciao Vittorio. Sì, esattamente. Dopo Londra sembra che Vienna abbia deciso di prendere il testimone per creare nuovi problemi alle cancellerie europee. In sostanza si tornerà al voto forse il 18 settembre proprio sul ballottaggio che aveva messo in ansia, in angoscia numerose cancellerie europee, perché appunto sarebbe stato l'eventualità della vittoria di Norbert Hofer, il candidato dell'estrema destra, del primo appunto presidente di estrema destra dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Quindi sarà una battaglia piuttosto infuocata, una campagna elettorale che si preannuncia molto tesa, e il futuro dell'Austria nell'Unione Europea, magari proprio con una ennesima proposta di referendum da parte dei liberal nazionalisti, potrebbe essere appunto un nuovo imporsi come uno degli argomenti cardine della prossima campagna elettorale. Quindi c'è veramente un declino della prospettiva europea, di questa Unione Europea che viene sempre più messa in discussione a favore del ritorno di uno Stato-Nazione. Questo sembra un po' il leitmotiv di questa situazione europea in questo momento. Quindi adesso si capisce in autunno che cosa succederà, perché appunto tu dici potrebbe essere imperniata la campagna, almeno per quanto riguarda la destra, su una possibile Austrix, come possiamo chiamarla? Sì, c'è già un nuovo termine preso a prestito proprio dalla parola austriaca Österreich, quindi sarebbe exit con la O con la dieresi e la parola exit in inglese. Questo è il nuovo termine che ahimè si allunga, perché ce ne sono altri in arrivo, con l'Olanda che appunto di estrema destra ha già chiesto un nuovo referendum consultivo anche in questo caso, e così via. Quindi è veramente una serie di movimenti centrifughi che stanno un po' colpendo, e il semestre europeo che parte con sotto la direzione della Slovacchia non è partito proprio benissimo, perché il premier slovacco Fico ha chiesto appunto una ridistribuzione delle politiche migratorie ancora agli stati. Insomma, ci sarà molto da discutere quest'estate. Già, grazie Vittorio Darold. Ciao Vittorio. Ciao, grazie. Ciao, a voi. Buon lavoro. Ora invece torniamo in Italia, parliamo di uno dei monumenti più belli del mondo, il Colosseo, che torna risplendente a nuova vita dopo il completamento della prima fase del restauro finanziato dal gruppo TOZ di Diego della Valle con 25 milioni di euro. Il progetto era partito già 5 anni fa quando era sindaco di Roma Gianni Alemanno. Alla presentazione per la fine dei lavori di restauro degli esterni del monumento oggi c'erano il Presidente del Consiglio Renzi, il Ministro dei Beni Culturali Franceschini e l'amministratore delegato del gruppo TOZ, appunto, Diego Della Valle. Vogliamo sentire la sua dichiarazione? Operazioni come questa del Colosseo ci servono, come dire, per fare una start-up dei rapporti tra il mondo delle imprese e quello che è pubblico, e considerare la giornata di oggi non solo una giornata culturale, perché magari lo è, ma una giornata che ha un senso economico importante. Io credo che il Ministero che occupa Franceschini oggi sia importantissimo e sia da considerare un ministero più economico che culturale, per quanto il turismo e soprattutto quello culturale in Italia può restituire al paese. Saluto Antonello Cherchi del Sole 24 Ore. Ciao Antonello. Ciao, buonasera. Che è presente oggi alla presentazione, alla conferenza stampa. Quindi Diego Della Valle, buonasera. Insomma, si pone a modello di nuovo mecenate, possiamo dire. Beh sì, devo dire, ha fatto come ha detto lui, è proprio una start-up, per vari motivi, perché quando lui è sceso in campo mettendo sul tavolo 25 milioni di euro per restaurare il Colosseo, non c'erano, come anche ha ricordato Franceschini oggi durante la presentazione del restauro, non c'erano tutte le agevolazioni fiscali che ci sono ora. Ora c'è l'Art Bonus, che è una generoso sconto fiscale per chi vuole dare un contributo alla cultura, quindi erano tempi meno favorevoli. Lui ha tenuto duro, grazie anche alla collaborazione tra Ministero e Della Valle, tra il pubblico e il privato, ha tenuto duro nonostante le polemiche, nonostante anche tutti i ricorsi davanti al TAR, perché si riteneva che questa aggiudicazione non fosse corretta, e ora i risultati si vedono. E sono risultati che vanno ben al di là del restauro del Colosseo, che è pure importante. Vanno ben al di là perché, come ha detto Della Valle, questa si può considerare un primo esempio, una start-up appunto di collaborazione tra pubblico e privato, e poi anche grazie a questa iniziativa il Ministero si è accorto che la legislazione non funzionava, e quindi più volte ha rimesso mano alle norme, alle regole che disciplinano la collaborazione tra pubblico e privato, snellendo anche di recente le sponsorizzazioni. Adesso sono più veloci e sono meno macchinose di quando Della Valle scese in campo. Quindi speriamo che si inneschi questo circolo virtuoso anche auspicato da Della Valle. Grazie Antonello Cherchi, certo, del Sole 24 Ore. Ciao Antonello. Buonasera, ciao. Viabilità? Sì. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Prima di passare le notizie, ancora i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666. Dice questo ascoltatore: l'euro ha molti difetti, ma la vecchia lira sarebbe una tragedia, a proposito appunto del referendum che vorrebbe indire il Movimento 5 Stelle, oppure dell'eliminazione proprio dell'uscita dall'euro automatico, dice la Lega di Salvini, se noi della Lega andassimo al governo. Tra pochissimo spazio europeo, vi ricordo le notizie più importanti, che sono appunto questo attacco terrorista che c'è stato firmato dall'ISIS in Bangladesh, con ancora alcuni ostaggi in mano a questo comando. Ci sarebbero 2 morti, secondo dei media locali sarebbero 2 italiani, per altri media sono 2 agenti del posto. Ci sono comunque degli ostaggi in mano ancora a questi terroristi. Poi l'omicidio di Yara Gambirasio, è arrivata la sentenza per Massimo Bossetti questa sera, l'ergastolo, la corte d'assise di Bergamo così ha deciso, e la prova del DNA è stata decisiva, dice il procuratore di Bergamo. Austria, ne abbiamo appena parlato, le elezioni presidenziali sono da rifare, la Corte Costituzionale ha invalidato l'esito del ballottaggio. Europa 24 notte. Mai come al Forum Economico di San Pietroburgo in Russia è stata evidente la distanza tra politica ed imprenditoria europea nei confronti della Russia. La prima, la politica irremovibile è sanzionatoria nei confronti di Mosca per la crisi ucraina, sia pure con qualche distinguo. La seconda, l'imprenditoria impegnata ad accrescere la collaborazione con la Russia nonostante gli ostacoli da superare. Una disarmonia pericolosa che dopo la lezione Brexit l'Unione Europea non dovrebbe trascurare ma affrontare con un piano per la normalizzazione dei rapporti, non per cancellare il passato ma per superarlo. Il discorso di Renzi a San Pietroburgo è stato fantastico. Uno schiaffo a tutti gli estremisti, alle lobby, ai gruppi di pressione, a coloro che ottusamente deridono i valori e le tradizioni. Bravo Matteo, bravo, mi sono innamorata. Firmato su Facebook da Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo. Zakharova cita anche entusiasta alcuni passaggi del discorso sulla costruzione della pace, la logica dell'apertura che deve ispirare le politiche occidentali, quello sugli investimenti in cultura, oltre che in difesa e sicurezza. Ma bravo a Matteo, andrebbe detto anche e forse soprattutto per avere tenuto testa diplomaticamente a un provocatorio Vladimir Putin. Non apertamente sgarbato, ma sardonico in diverse occasioni e non troppo accogliente, se consideriamo che l'Italia era il paese ospite del Forum Economico di San Pietroburgo. Ma questo dal discorso del presidente all'assemblea plenaria non l'avrebbe capito nessuno, perché l'Italia o le sue imprese non sono mai state citate, sebbene fossero lì anche per firmare una serie di economicamente consistenti accordi di cooperazione. Non citate, al contrario, delle imprese tedesche e francesi, di cui Putin ha parlato per dire che sono pronte e vogliono lavorare con la Russia. La politica, ha detto, deve andare incontro agli affari. Sarà che Putin ha scaricato sul premier italiano il nervosismo nei confronti del presidente della Commissione europea Juncker, che dallo stesso palco, il giorno precedente, aveva parlato sì di ponti da costruire con la Russia, ma anche di proseguimento del regime di sanzioni per la crisi ucraina. Di lì a pochi giorni, gli ambasciatori rappresentanti permanenti dell'Unione Europea riuniti a Bruxelles avrebbero approvato a livello tecnico la decisione di rinnovare e mantenere l'embargo economico ai danni di Mosca sino a metà gennaio 2017, il che implicherà la prosecuzione delle controsanzioni russe all'importazione di alcuni prodotti europei. Francia e Italia non si sono opposte alla manovra, come si pensava, ma hanno auspicato una benedizione politica del pacchetto di misure sanzionatorie, da farsi in una discussione tra i capi di Stato e di Governo, in cui si agganciasse anche formalmente l'attuazione degli accordi di Minsk alla fine delle sanzioni stesse. A Parigi, Roma, ma anche a Berlino, cresce infatti il desiderio di fissare le tappe di una normalizzazione dei rapporti con la Russia, a differenza di quanto accade in altri paesi europei, baltici e Polonia in testa. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Ciao dall'Università di Berlino, cara Roberta, scrive Alberto, a conferma che da tutto il mondo ascoltano Effetto Notte, scrivetelo, da dove state ascoltando, dove mandate le vostre riflessioni. Grazie caro Alberto, adesso però sulle partite. Abbiamo lavorato, nessuno parte battuto, abbiamo le nostre conoscenze, abbiamo la nostra volontà, abbiamo la nostra voglia di superare ostacoli che sembrano insormontabili all'inizio. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, oggi dovremo fare, domani dovremo fare qualcosa di super straordinario, perché sarà una sfida, ecco, veramente probante. E Dario Ricci ci farà una radiocronaca super straordinaria domani alle 21, non è vero Dario, dalla Francia, da Bordeaux? Beh sì, da Bordeaux, per quello che ci sarà consentito nei nostri GR, anzi invitiamo tutti a seguirli con attenzione e partecipazione, magari anche con la maglietta azzurra come chiede il CT Conte, cara Roberta. Domani ennesimo capitolo di Italia-Germania, di questa saga infinita, comunque vada, verrà scritto a Bordeaux a partire dalle 21 e chissà, magari potremmo finire anche intorno a mezzanotte se dovesse arrivare ai calci di rigore. Come sai, l'enigma della vigilia in casa azzurri sono le condizioni di Daniele De Rossi, che sembra vicino a un prodigioso recupero che dovrebbe però portarlo non in campo dal primo minuto ma al massimo in panchina. Comunque già un miracolo visto le condizioni con cui era uscito dal campo contro la Spagna. Non giocando probabilmente il titolare De Rossi, sarà Sturaro, lo juventino Sturaro, il titolare, con il laziale Parolo a farsi carico dei compiti di regia. So che sono indicazioni tecniche che magari un po' ti sfuggono, ma che è necessario dare alla regia di una sfida così importante. Grazie Dario Ricci. Vedo che comunque per gli scommettitori una scommessa su due è azzurra. Si parla di effetto Conte. Secondo te è stato mutuato da effetto notte questo effetto Conte, Dario? Sì, assolutamente. Secondo me hanno sbagliato, era effetto notte. e quindi poi inevitabilmente ha dovuto diventare effetto Conte, ma perdonali perché non sanno quello che fanno. E sarà, però speriamo che sappiano in parte quello che faranno domani. Grazie Dario Ricci da Bordeaux e buon divertimento. Ciao, ciao Dario, buona sfida. Ciao. Noi ci risentiamo per gli aggiornamenti alle 22.